L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati per questa puntata che dedichiamo alla terza edizione di Biogas Italy, l'alba di una rivoluzione agricola, questo è stato il titolo di quest'anno. Un evento del CIB, Consorzio Italiano Biogas, nel corso del quale si sono anche svolti a Roma gli stati generali del settore. L'Italia è da tempo uno dei principali produttori di biogas in agricoltura, è quarta al mondo dopo Germania, Cina e Stati Uniti, con la particolarità positiva che il modello e il disciplinare di produzione promosso dal Consorzio Italiano Biogas, che è stato denominato Biogas Done Right, ovvero biogas fatto bene, ha pochi rivali al mondo, anche perché il biogas e il biometano prodotti secondo questo disciplinare sono carbon negative, quindi sono più che utili per contenere le emissioni climalteranti, ma ne parleremo nel corso della puntata. Prima di partire voglio farvi qualche precisazione, ovvero il biogas è il frutto della degradazione in assenza di ossigeno di varie sostanze organiche ad opera di numerosi batteri. Può essere convertito in elettricità e calore. Il biometano è il risultato di un processo di upgrading, di miglioramento, diciamo così, del biogas, che può essere anch'esso utilizzato per la produzione di energia e calore, ma anche utilizzato in veicoli a motore. In Italia sono al momento operativi più di 1.500 impianti di biogas, dei quali circa 1.200 in ambito agricolo. A questo punto possiamo sentire Piero Gattoni, presidente del CIB, sugli stati generali del biogas che, come dicevo, si sono appena svolti a Roma. Abbiamo pensato di fare questo incontro perché dopo 10 anni di vita del consorzio e dopo un forte sviluppo del settore del biogas in agricoltura, riteniamo che siamo di fronte a una nuova prospettiva e un nuovo rilancio per il settore. Abbiamo deciso di intitolare questa giornata di riflessione, in particolare la mattinata, l'alba di una rivoluzione agricola, perché ci siamo resi conto in questi anni che nelle nostre aziende la digestione anaerobica non è stato solo un modo per produrre energia rinnovabile, ma è stato una tecnologia che ci ha permesso di cambiare proprio l'approccio anche alla produzione agricola tradizionale. Il modello italiano infatti si distingue per la forte integrazione fra produzione agroindustriale e produzione energetica. Quindi nella giornata di oggi questi stati generali hanno avuto proprio l'obiettivo di presentare alcuni studi da parte di agenzie internazionali e di ricerca del mondo della ricerca italiano che hanno misurato questa capacità del nostro sistema di essere sia più competitivo dal punto di vista dell'economicità delle aziende, sia di renderle più sostenibili. E infine abbiamo presentato questo sistema a un gruppo di studiosi internazionali dal mondo accademico inglese, americano e argentino per chiedere a loro di valutare quanto il nostro modello possa essere esportabile, possa contribuire anche a livello internazionale a un approccio più produttivo del mondo agricolo che possa diventare da parte del problema anche a parte della soluzione del cambiamento climatico. Dunque, allora io credo che a questo punto dobbiamo spiegare agli ascoltatori che cos'è questo modello italiano che voi avete chiesto di investigare e che si può forse, cioè sì, perché io so poi alla fine come è andata la ricerca degli studiosi, portare fuori. Su cosa si basa? Il modello italiano si basa su innanzitutto prediligere l'utilizzo di sottoprodotti e culture di integrazione, dove per culture di integrazione si intendono principalmente le culture di rotazione. Quindi l'idea è, avendo oltre al mercato dell'alimentare anche il mercato energetico, torna conveniente per le aziende produrre tutto l'anno, quindi due raccolti dallo stesso terreno, e questa intensificazione, grazie poi all'uso del digestato, che è il sottoprodotto che si genera a valle della digestione anaerobica, che è un ottimo fertilizzante, permette alle nostre aziende anche di essere quindi più sostenibili e aumentare la produzione senza avendo un minore impatto ambientale. Quindi addirittura sarebbero due le produzioni, una energetica e una l'altra che diceva come sottoprodotto che può essere riutilizzata comunque. Sì, l'estrema flessibilità che interessa del modello, l'estrema flessibilità nella capacità di utilizzo di materie in ingresso degli impianti di biogas, l'estrema flessibilità in uscita, in quanto il biogas può produrre energia elettrica, energia termica, ma anche un biocarburante, dal momento che il biometano, che è il biogas depurato, è di fatto utilizzabile anche nei trasporti, quindi nelle macchine, nei trasporti pesanti. E infine c'è a valle di tutto questo processo la produzione del digestato, che è un fertilizzante organico molto efficiente, che ci permette quindi di riportare poi sostanza organica anche al terreno. Quindi diciamo che la peculiarità del modello italiano è proprio la sua circolarità e quindi il fatto di riuscire a integrarsi bene con quello che sono le prospettive di un'agricoltura che si basi sempre di più su un modello di economia circolare. Il tutto senza andare in conflitto con la produzione alimentare, perché poi questo è un altro tema di quelli che vengono sempre fuori in queste occasioni. È proprio il tema del conflitto con le produzioni alimentari ha caratterizzato il dibattito sulle bioenergie negli ultimi 10 anni. Noi riteniamo che il merito delle nostre aziende, ma è che comprensibile che sia successo in Italia visto la vocazione storica per le nostre produzioni agroalimentari, sia proprio quello di non volere inserire la produzione energetica in sostituzione dell'alimentazione, ma volerla inserire integrandola. Ed è per questo che il modello di supporto e di promozione delle doppie culture ha in questo tipo di approccio il suo aspetto più innovativo. Senta, ma in Italia quanto è diffusa tra gli agricoltori la conoscenza di queste questioni e quindi delle possibilità che si aprono a chi intraprende questa via? Ma in Italia è sempre più diffusa, ovviamente è un modello a cui noi stiamo tendendo e abbiamo bisogno di poter usufruire sia di ricerca che di tecnologia, quindi il significato anche del consorzio, che è una piattaforma che aggrega sia l'industria che il mondo agricolo, è proprio quello di stimolare una verifica, un continuo confronto che produca poi delle effettive opportunità per le nostre aziende di innovazione. Però è un percorso che stiamo intraprendendo perché è un percorso che ha di fatto una sua radice economica. Noi siamo convinti che utilizzare i sottoprodotti, gli effluenti zootecnici, la cultura di rotazione sia effettivamente più vantaggioso ed efficiente anche da un punto di vista economico. Quindi questo è un percorso che nasce da un approccio tipico del mondo agricolo, che è molto pratico. Lei diceva abbiamo bisogno di ricerca, di tecnologia, avrete anche bisogno, immagino, come in tanti campi dell'innovazione, di normativa adeguata. Abbiamo bisogno anche di normative adeguate, devo dire però che il dibattito che si è animato negli ultimi anni ha permesso comunque al nostro paese di dotarsi di una normativa sicuramente all'avanguardia, sia per quanto riguarda la promozione del biogas, come dimostrano i numeri di sviluppo degli ultimi anni, che in fase di sviluppo anche sui biocarburanti. Abbiamo bisogno di poter portare questo modello all'attenzione anche del legislatore europeo, perché ormai le direttive che in Europa si prendono hanno sempre più rilevanza poi per le strategie nazionali. Ecco, l'unica cosa che possiamo chiedere ogni tanto, di cui abbiamo bisogno, è la tempistica, cioè pensiamo che a volte i tempi dell'impresa debbano essere supportati in maniera più veloce da parte del legislatore, ma su questo stiamo lavorando positivamente con i vari ministeri e riteniamo che entro quest'anno anche il biometano sia un'opportunità che potranno cogliere le nostre aziende. Di burocrazia non abbiamo parlato, non è necessario? Un altro grande tema italiano. Se vuole posso parlare di burocrazia è come parlare di politica o di cose molto generali, nel senso che sappiamo che ci sono delle tematiche a cui le nostre imprese purtroppo farebbero anche, di cui farebbero volentieri a meno. Noi non fare una richiesta di minor burocrazia generico rischia di essere abbastanza poco incisivo. Quello che possiamo chiedere è, visto l'entità che hanno le nostre realtà ormai sul territorio nazionale, non tanto una deregulation, ma norme che siano chiare, in modo che possano essere comprese e applicate da tutte le aziende su tutto il territorio nazionale. Chiudiamo su quello studio di cui lei mi ha accennato prima, cioè avete sottoposto questo modello italiano a docenti internazionali. I risultati di questo studio sono stati presentati appunto nel corso degli Stati Generali, hanno dato esito positivo. Questo è anche un altro filone forse di investimento per le imprese e gli imprenditori, diciamo, che lavorano nella filiera. Ma sicuramente è un filone di investimento, perché una delle caratteristiche tipiche del nostro sistema imprenditoriale è che è basato sulla piccola e media impresa, che sicuramente deve avere la forza e la capacità di aggregarsi, come è successo nel Consorzio Italiano Biogas, per poter insieme avere le dimensioni critiche per poter investire anche su fasi di ricerca e di approfondimento. Sicuramente per potersi presentare per comprendere meglio quali sono le traiettorie di sviluppo bisogna avere dati, numeri e ricerche. Su questo noi continuiamo a lavorare. I risultati che sono stati presentati in questi Stati Generali sono sicuramente confortanti. E il fatto che abbiamo rilanciato ancora quest'anno su un nuovo team di lavoro internazionale sta a significare che abbiamo intenzione di continuare a crescere questa relazione col mondo dell'accademia, ma unirla al mondo della praticità, al pragmatismo del mondo agricolo. Vorremmo che quando si parla di tematiche legate al terreno, all'uso del terreno, il mondo dell'accademia si confronti anche con chi poi i terreni li coltiva nella pratica, perché da questo confronto potrebbero nascere delle risposte di cui abbiamo veramente bisogno. E questo era Piero Gattoni, ricordo, presidente del CIB. Dopo la pausa sentiremo come sul campo lavora un produttore di biogas. Usain Bolt si mette in scia, attenzione che spinge fino in fondo, ha il record del mondo! Garozzo eccelle, la stoccata, la conferma, la stoccata. Daniele Garozzo è campione olimpico. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. I miti, le verità, le leggende e i segreti dello sport. Sono Dario Ricci e vi aspetta a Olimpia ogni domenica alle 20:30, naturalmente qui. Su Radio 24. L'altro pianeta. Ancora un buon pomeriggio da Laura Bettini. Stiamo parlando degli Stati Generali del biogas, ma più in generale parliamo di biogas in questa puntata. Abbiamo sentito la narrazione di come sono andate le cose da Piero Gattoni, che è il presidente del Consorzio Italiano Biogas, CIB. Ora veniamo a un socio, un agricoltore e produttore di biogas fatto bene, quindi questo disciplinare italiano di cui abbiamo parlato poco fa, che sta riscuotendo molto interesse in giro per il mondo. Noi gli abbiamo fatto la domanda più ovvia: come si fa il biogas fatto bene? Danio Federici, della cooperativa Pieve Ecoenergia della provincia di Cremona. Si fa, bisogna prendersi in carica il digestato, che è una risulta della digestione anaerobica, che rappresenta un concime organico assolutamente di qualità, e utilizzarlo al meglio. Questo significa utilizzare il digestato e fare due raccolti, non più uno, quindi concimare i terreni col concime organico e destinare un raccolto alla stalla e un raccolto al digestore anaerobico. Facendo quindi in modo che il digestore e la stalla lavorino, vabbè, la stalla ovviamente lavora sempre, ma che anche il digestore sia sempre all'opera e che quindi possa produrre quello che serve per continuare questo doppio ciclo. Certo, perché la stalla e il digestore si completano a vicenda, perché il digestore raccoglie tutti i residui, no? Quindi i liquami, i residui, le pulizie della stalla. Il digestato di risulta del digestore serve a concimare i campi per far crescere i vegetali che servono ad alimentare le vacche poi. Una volta per le vacche e l'altra volta invece per poi dopo. Il modello italiano consiste nel farlo una volta per le vacche e una volta per la stalla. Questa è la nostra novità. Praticamente anche in Germania fanno così, cioè usano il digestato per fare il mais. Però noi la nostra differenza, quello che abbiamo sperimentato, è stato quello di fare le due intraprendere le due strade nella stessa annata agraria. E quindi ci sono due raccolti appunto che hanno due destinazioni diverse e che non vanno però a stancare il terreno, da quello che ho capito, perché non si tratta di una coltivazione insistente. Assolutamente, anzi il bello del modello, diciamo, è che oltre a produrre di più, la funzione ambientale che queste metodiche hanno viene addirittura accentuata, quindi riusciamo ad andare anche in negatività per quanto riguarda il carbonio. Che è un bel dato, perché quindi c'è anche una ricaduta climatica, oltre che sull'energia, anche la redditività dell'azienda in parte. Beh certo. Perché quello serve a far quadrare meglio i conti, naturalmente. Naturalmente il lavoro aumenta, però diciamo che una delle caratteristiche è che l'unità lavorativa necessaria aumenta e quindi i posti di lavoro certamente saranno necessari, sono di più, l'inquinamento viene ridotto perché c'è questa funzione ambientale, no? Che tutte le fonti alternative hanno, le energie alternative hanno in sé, no? Per definizione, e in più abbiamo l'aspetto produttivo che non è secondario, anzi è molto importante efficientare la produzione. L'ultima cosa che così come osservazione mi viene spontanea è che anche voi come imprenditori però avete dovuto, come dice, studiare di più, no? Cioè c'è tutto un lavoro da fare continuo. Reinventare la professione a questo punto, no? Perché ormai poi queste pratiche che le ho detto si fanno con l'utilizzo della precision farming. Quindi abbiamo dovuto attrezzarci e quindi investire in macchinari, in tecnologie. Utilizziamo trattori con i satellitari proprio per essere più precisi nella distribuzione del digestato e nelle operazioni di semina e di raccolta. Quindi abbiamo proprio dovuto reinventarci il lavoro. Non è più l'agricoltura, la famosa rivoluzione agricola è avvenuta e sta avvenendo. C'è molta attenzione al biogas in vari ambiti, in SNAM per esempio, alla cui rete hanno chiesto di essere allacciate già un centinaio di aziende agricole produttrici di biometano, ma ci sono anche FCA e CNH Industrial che con il CIB, con il consorzio del biogas, studiano le possibilità di utilizzo del biometano nei trasporti e nei mezzi agricoli. E c'è moltissima attenzione anche a Bruxelles, poiché il biogas è tra le fonti energetiche rinnovabili che possono sostanzialmente aumentare l'autonomia energetica europea e ridurre le emissioni, come abbiamo sentito, e l'inquinamento atmosferico. Per fare un esempio, il nostro paese potrebbe produrre entro il 2030 fino a 8,5 miliardi di metri cubi di biometano, che sono pari a circa il 12-13% dell'attuale fabbisogno annuo di gas naturale. A Giulio Volpi, della Direzione Generale Energia presso la Commissione Europea, abbiamo quindi chiesto che ruolo ha il biogas nel pacchetto europeo sulle energie che è stato presentato a fine novembre del 2016 e che attualmente è in discussione al Parlamento Europeo. Il biogas è un caso concreto di due grandi priorità che la Commissione sta portando avanti, sta promuovendo a livello europeo. L'economia circolare, cioè riuscire a produrre sempre di più in modo circolare dai rifiuti e dai prodotti di altre industrie. E un'altra grande priorità è quella della costruire una unione dell'energia per raggiungere sia gli obiettivi di decarbonizzazione, ovvero di sostituire sempre di più i combustibili fossili con energie rinnovabili e con l'apporto all'efficienza energetica, e in questo modo non solo creare posti di lavoro ma anche creare nuove opportunità di sviluppo economico in Europa. Il biogas è proprio un esempio di come attraverso l'utilizzazione dei rifiuti sottoprodotti dell'agricoltura si può creare nuova occupazione, una nuova fonte di risorse per le nostre imprese agricole e allo stesso tempo creare e produrre una fonte di energia rinnovabile che sostituisce il gas naturale importato molto spesso da zone molto instabili. E bisogna ricordare che l'Europa è molto dipendente dalle importazioni di combustibili fossili dall'estero che pesano in modo significativo sulla nostra bilancia commerciale, e se riuscissimo a sostituire queste importazioni con energie rinnovabili, che stiamo facendo adesso, riusciamo a immettere nella nostra economia nuove fonti di importanti quantità di finanziamenti per rilanciare lo sviluppo e la crescita, che è la priorità oggi non solo per l'Italia ma per tutta l'Europa. C'è una stima di quale contributo potrebbe dare il biogas una volta ovviamente diffuso, diciamo, la sua produzione sul territorio europeo? Le stime variano, si può parlare di oggi il biogas è utilizzato sia per la produzione di elettricità sia per la produzione di calore, il contributo dipende dai vari settori, però al 2030, che è il nostro scenario, il nostro orizzonte, diversi scenari mostrano che il biogas potrebbe soddisfare fra il 3 e il 5% della domanda finale di energia in Europa, che è un apporto significativo. Naturalmente bisogna produrre il biogas in modo sostenibile, quindi il concetto di biogas fatto bene è molto interessante e merita un approfondimento maggiore. Potrebbe diventare una di quelle best practice, una migliore pratica che partendo dall'esperienza italiana poi venga replicata in tutta Europa e anche nel mondo. Quindi sicuramente c'è molto interesse da parte della Commissione Europea in questa esperienza, proprio perché vogliamo sviluppare sempre di più le bioenergie in modo sostenibile per garantire una sinergia fra il mondo dell'agricoltura e il mondo dell'energia. Quando lei dice biogas fatto bene, è il biogas che si cerca di individuare, cioè quando la Commissione pensa, no, a implementare la produzione di biogas, bisogna capire qual è quello fatto bene, quindi il caso italiano, come quello tedesco, che è l'altro caso europeo, sono così sotto indagine in questo momento. Sì, la direttiva o la revisione di direttiva sulle energie rinnovabili che abbiamo appena adottato e presentato e che adesso è al vaglio del Parlamento europeo e degli Stati membri per approvazione, speriamo entro la fine dell'anno, definisce un nuovo obiettivo per il 2030, abbiamo aumentato l'obiettivo di energie rinnovabili da un obiettivo del 20% a livello europeo. Per il 2020 l'abbiamo aumentato almeno il 27% per il 2030. E la direttiva definisce una serie di regole generali, non è che promuove delle tecnologie specifiche. L'obiettivo è che ciascun paese utilizzi le proprie risorse, in questo caso l'Italia può utilizzare il biogas insieme ad altre fonti rinnovabili per raggiungere per contribuire a questo obiettivo europeo in modo più efficiente e sostenibile. La direttiva include dei criteri di sostenibilità, ovvero tutte le bioenergie utilizzate in Europa per contribuire al raggiungimento di questo obiettivo europeo devono essere sostenibili, devono riempire i criteri definiti dalla direttiva attraverso dei sistemi di certificazione. E naturalmente la proposta dell'industria italiana e anche del governo di un biogas fatto bene va nel senso di un biogas sostenibile che, come ho detto prima, mette insieme le necessità dell'industria, quindi dell'energia, quindi produrre energie rinnovabili in modo compatibile con l'ambiente e creando delle opportunità nuove per il settore agricolo. Molto bene, ci fermiamo qui con questa puntata. Abbiamo sentito, ricordo, l'ultimo intervento era di Giulio Volpi, della Direzione Generale Energia presso la Commissione Europea. Da Laura Bettini un buon proseguimento d'ascolto e l'appuntamento è, come sempre, per la prossima settimana alla stessa ora.